Il conto che era stato attivato da Regione Emilia-Romagna nei primi giorni di questo drammatico conflitto ha già raccolto fino a qui oltre 2 milioni e 150 mila euro, per cui il sincero grazie va a quelle oltre 4.400 cittadine e cittadini, imprese, associazioni, enti locali del nostro territorio che non si sono voltati dall'altra parte, hanno deciso di contribuire. Ora, naturalmente, settimana scorsa abbiamo già avviato un nuovo bando per progetti di aiuto umanitario, abbiamo proseguito il confronto con le ONG e le realtà della cooperazione che stanno operando in Ucraina per capire quali fossero e come fossero mutate le esigenze, e quindi oltre naturalmente a rimarcare la necessità di sostegno umanitario, psicologico, medico e di al benessere dei minori colpiti da questo conflitto, abbiamo arricchito anche il nuovo bando, che è di 600.000 euro per nuove progettualità sempre rivolte a enti del terzo settore, ONG, realtà della cooperazione regionali, in collaborazione con partner locali in Ucraina e anche naturalmente agli enti locali che volessero presentare dei progetti in questa direzione. L'abbiamo arricchito con anche finalità di supporto logistico ai trasporti in condizioni di sicurezza, l'evacuazione umanitaria delle persone intrappolate nelle aree più colpite dal conflitto in questo momento, il sostegno ai trasporti, ai beni e aiuti umanitari dai paesi confinanti con l'Ucraina per sopperire alla drammatica carenza anche interna di disponibilità, e attività di supporto scolastico a favore dei bambini accolti sia in presenza che in remoto, e attività anche ludico-ricreative e di socialità rivolte a questi bambini. Quindi questo per il versante appunto di aiuto umanitario in loco, e poi in prospettiva anche naturalmente quando si potrà di progetti di ricostruzione. Veniamo invece al milione di euro dei fondi raccolti che destineremo al supporto all'accoglienza qui nel territorio dell'Emilia Romagna. Nel frattempo mi è arrivato il dato aggiornato naturalmente di queste ultime rilevazioni, siamo a 23.868 persone accolte in Emilia Romagna. 500.000 euro di questo milione li destineremo nell'immediato per garantire le opportunità educative di socialità dei minori ucraini arrivati nella nostra regione. Quindi ci occuperemo naturalmente del supporto ad esempio alla piena inclusione di questi minori nelle opportunità di centri estivi, su cui come sapete la regione da anni fa una politica che abbiamo riconfermato settimana scorsa di abbattimento delle rette per l'accesso. Grazie a questa misura ad hoc sarà possibile naturalmente sostenere l'accessibilità dei minori ucraini a queste opportunità formative di inclusione educativa anche per questa estate così difficile, che vogliamo aiutarli a vivere nel modo migliore possibile, ecco, a condizioni date. Sappiamo che avendo appena lasciato tutto alle spalle sarà un'estate difficile, ma noi ce la mettiamo tutta per fargli tornare almeno un po' di serenità. Quindi questi 500.000 euro appunto li metteremo a disposizione degli enti locali attraverso i distretti per raccogliere naturalmente le disponibilità, e potranno andare sia al coprire i costi di accesso per i minori ucraini ai centri estivi già esistenti, sia per ulteriori opportunità educative e di socialità che i comuni volessero destinare. Questo riguarda i minori ucraini dai 3 fino ai 17 anni naturalmente, quindi abbiamo volontà insomma di dare un'attenzione particolare, così ci hanno chiesto anche insomma associazioni e territori, a queste bambine e questi bambini. Naturalmente proseguiremo con i comuni a individuare quali sono le esigenze specifiche che oggi vengono avanti in termini di supporto all'accoglienza sul nostro territorio, perché gli altri 500.000 euro andranno a progetti, sempre attraverso gli enti locali, a progetti di inclusione sociale, sportiva, culturale, educativa, e quindi diciamo completeremo il quadro anche con opportunità di inclusione grazie a questi altri 500.000 euro attraverso gli enti locali, che però guardano a tutta, ecco, la popolazione ucraina complessivamente che ha raggiunto e ha trovato accoglienza nel